Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Come hanno deciso di fare molte famiglie, per la verità anche noi che oggi siamo qua regolarmente in diretta avremmo preferito andare per castagne, magari in montagna o in campagna, piuttosto che guardare a quello che sta accadendo in questa giornata sui mercati finanziari europei. Una giornata nera, di nuovo siamo abituati da quando è scoppiata la crisi dei mutui subprime a registrare giornate di questo tipo. Ricordate cosa succedeva nell'autunno del 2008? Quando le borse facevano un giorno più 10, il giorno dopo meno 12 e poi il giorno dopo risalivano ancora di altri 7, 8, 10 punti, insomma volatilità estrema che in questi giorni stiamo rivivendo. Quella volta però c'era la crisi dei mutui subprime, c'era l'ossessione per le decisioni che doveva prendere il Congresso americano, il famoso piano Paulson che doveva ricapitalizzare le banche americane. Oggi però, siccome stiamo parlando di una crisi che è molto più vicina a casa nostra, forse, come dire, la situazione ci preoccupa un po' di più. Stamattina letteralmente mercati sotto scacco, ecco cosa succede: Parigi perde il 3,78%, Francoforte fa meno 4,33%, Londra meno 3%, Milano meno 5,43%, a picco i titoli bancari che peraltro continuano a subire sospensioni dalle negoziazioni, continuano a finire in asta di volatilità. Intesa è ferma dalle 11,39, faceva meno 13,87%, Unicredit adesso vede un movimento sulla variazione percentuale, meno 11% a 75 centesimi, Fiat Industrial meno 10,40, Fondiaria meno 7,5%, Monte dei Paschi meno 7,30, Popolare di Milano meno 7, Finmeccanica meno 6,89, meno 6 punti per il Banco Popolare, per Azimut, per Fiat. Andrei dall'altra parte della classifica per vedere se c'è qualche segno più. Non ne vedo. I titoli che perdono meno: Parmalat meno 1,86, Enel Green Power meno 2, A2A meno 2, Terna meno 2, Snamere Tegas meno 2,27. Insomma, potrei continuare a lungo, ma la giornata è questa. Cosa è successo? La tensione c'è da diverse settimane. Come sapete, si è riacutizzata la scorsa estate, quando il mercato ha cominciato a bersagliare di vendite i titoli di Stato italiani, situazione che si è inasprita negli ultimi giorni. Oggi poi abbiamo l'ennesimo record del famigerato spread fra BTP e Bund, che ha toccato i 440 punti base, un livello mai visto dall'introduzione dell'euro, facendo schizzare i rendimenti su tutte le scadenze del debito italiano. Allora io lo ripreciso ancora perché stamattina ovviamente si è scatenata anche un po' di bagarre all'interno della redazione. Molti ascoltatori ci hanno segnalato che stavamo dando delle notizie non corrette, direi anche abbastanza devastanti, perché c'è talmente fibrillazione anche nella divulgazione delle notizie che ad un certo punto la crescita percentuale giornaliera dello spread di questo differenziale di rendimento era oltre il 7% rispetto alla chiusura di ieri, e per una serie appunto di interpretazioni errate che abbiamo fatto delle notizie che vedevamo, abbiamo attribuito questo valore percentuale al rendimento del BTP decennale sul mercato secondario. Ovviamente cosa che non è vera, perché questa soglia avrebbe implicato un'automatica richiesta alle organizzazioni internazionali di aiuti per l'Italia. Siamo al 6,20% circa di rendimento sul BTP decennale sul mercato secondario, per cui vorrei ritranquillizzare la popolazione italiana che non era quello il rendimento del titolo di Stato appunto a scadenza a 10 anni. Però questo per farvi capire stamattina, pur essendoci SGR, SIM e banche chiuse, quello che sta accadendo, la fibrillazione che si vede appunto sulle piattaforme che anche noi utilizziamo per appunto ottenere le informazioni che poi vi raccontiamo. Questo è il quadro di questa mattina. Che cosa ha riscatenato questa situazione nera che già avevamo visto ieri? Ieri la reazione c'era stata a seguito della notizia che era rimbalzata nel fine settimana, secondo la quale Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea hanno allo studio questo piano appunto per proteggere Italia e Spagna dalla continua speculazione finanziaria che li sta colpendo. Un piano al quale per la verità gli organismi internazionali stanno lavorando da oltre un anno, ma la notizia è rimbalzata nel fine settimana. Ieri i mercati hanno reagito malissimo. Oggi invece altre notizie hanno provocato questa dirompente reazione dei mercati. Adesso ve le racconteremo con chi lo facciamo stamattina. Intanto ringrazio e saluto per essere con noi Corrado Caironi, investment strategist di ricercafinanza.it, che saluto. Dottor Caironi, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Non è esattamente un bel buongiorno, un buon martedì, però ci sta, insomma, che forse a questa situazione ci saremmo arrivati. Peraltro vorrei ricordare che il dottor Cairo noi lo abbiamo intervistato la scorsa estate per alcune puntate estive del nostro programma e in un momento ancora per nulla sospetto, in tempi non sospetti, ci aveva già anticipato che nel giro di poco le agenzie di rating avrebbero cominciato anche a mettere sotto osservazione la solidissima Francia, la sua AAA, cosa che è successa puntualmente nelle scorse settimane, per cui da lei stamattina mi aspetto, dottor Cairone, in altra sfera di cristallo, che ci tranquillizzi un po' rispetto a quello che vediamo e poi naturalmente la sentiremo. Volevo salutare anche, perché è in collegamento con noi da Copenaghen questa mattina, il professor Bruno Amoroso. Buongiorno, è docente di economia internazionale presso l'Università di Roskilde in Danimarca, spero di aver detto correttamente, che è l'autore di un libro il cui titolo è tutto un programma, Euro in bilico, lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale nell'area mediterranea, i mercati sprofondano e aumentano le tensioni sociali. Professor Amoroso, grazie anche a lei questa mattina di essersi collegato con noi. Ci piacerebbe anche sapere, al di là delle sue tesi che non sono molto light sul futuro dell'euro e su come appunto i mercati e i paesi dell'Unione Monetaria appunto potranno reggere rispetto a questa crisi, ci piacerebbe poi sapere lei come racconta da italiano agli studenti danesi appunto la crisi dell'Eurozona e la crisi anche italiana, quindi già le anticipo che mi piacerebbe con lei partire da questo discorso. Detto questo, Corrado Caironi, andiamo un po' a vedere oggi che cosa sta succedendo. Allora, abbiamo detto più volte questa mattina, da quando abbiamo cominciato le nostre dirette, che tutta questa bagarre in borsa stamane, così tanto per aggiungere benzina e gettare benzina sul fuoco, è stata provocata da questa decisione del governo greco di organizzare un referendum nel paese per approvare il nuovo accordo sulla riduzione del debito ellenico. Ritiene anche lei che ci sia dietro a tutto questo movimento solamente l'ennesima scusa per liberarsi di titoli azionari, di titoli bancari, per vendere i titoli dei paesi periferici? In linea di massima potrebbe essere comunque una delle cause e sicuramente una causa scatenante importante, perché gli occhi erano puntati ovviamente sull'esito del summit del G20 del 3 e del 4 novembre, quindi mancano pochi giorni, e out of the blue una notizia di questo tipo nel quale è evidente un chiaro disimpegno da parte della politica greca, che non è più in grado di gestire probabilmente i dissidi interni e che a questo punto mette nelle mani del popolo una decisione che riguarda gli aiuti, la vedo molto molto molto brutta, molto difficile da digerire, soprattutto a due giorni da questo incontro importante, dove doveva essere descritto in maniera molto molto dettagliata il processo con il quale si usciva da una situazione di crisi che quest'estate è stata difficilissima. Quindi il percorso che doveva vedere l'haircut, quindi il taglio sul debito greco del 50%, davanti a questo il rafforzamento patrimoniale del Fondo Salva Stati e la ricapitalizzazione del sistema bancario, viene assolutamente sconvolta da questa decisione politica che mette nelle mani del popolo greco in pratica un referendum sul rimanere o meno nell'unione monetaria, perché alla fine il mercato di questa situazione. Allora, altre notizie che stamattina erano arrivate, che in qualche maniera un po' avevano anche movimentato le prime fasi delle contrattazioni, soprattutto sui mercati asiatici, è arrivata la notizia della decisione della Banca Centrale Australiana di tagliare il tasso di riferimento di un quarto di punto al 4,5%. Qui si tratta del primo allentamento della politica monetaria dall'aprile del 2009. Una decisione abbastanza interessante questa, se ricordiamo che si colloca in una settimana in cui c'è anche la riunione della Banca Centrale Americana, che inizia oggi e termina domani con la decisione sui tassi di interesse, con l'insediamento sulla poltrona della Banca Centrale Europea, della presidenza della Banca Centrale Europea di Mario Draghi oggi, e già questa settimana c'è la riunione sui tassi di interesse. Dottor Caironi, per esempio, se arrivasse qualche decisione sui tassi, i mercati si potrebbero un po' calmare questa settimana? Penso di sì, potrebbe essere un dato essenziale. Allora, il dato interessante, che potrebbe essere magari visto marginalmente nel discorso della Banca Centrale Australiana del taglio 25% di 25 basis point, è molto indicativo per una logica che va a rivedere le tensioni sui prezzi delle commodities. Questo taglio indica in realtà un raffreddamento previsto per i prezzi delle commodities, giocando a favore appunto di un problema in meno, cioè che è quello dell'inflazione. Quindi stiamo già parlando di stagflazione, rallentamento economico ormai è evidente, un rientro probabilmente dei prezzi delle commodities è molto importante. E dall'altra parte questo potrebbe influenzare chiaramente anche a livello internazionale. L'Europa, in particolare Draghi, potrebbe dare questo segnale importante di taglio di 25 basis point dopo mesi in cui si sta parlando di addirittura quasi recessione per quanto riguarda i primi mesi del 2012, quindi un segnale che potrebbe essere tranquillizzante. Tenga conto di un'altra cosa, che il dato per esempio cinese del PMI che è uscito sempre in mattinata, anche questo va a segnalare una situazione di rallentamento e di tensione, di meno tensione probabilmente su questo discorso dei prezzi. Qualcuno ovviamente poi in discussione il discorso del soft landing, dell'hard landing, quindi di una problematica anche di rallentamento che potrebbe essere magari forte, un rallentamento forte della Cina. Però il dato significativo è quello di almeno dell'indice delle esportazioni, che è venuto molto meno. Quindi il segnale che all'esterno della Cina ci sia un rallentamento economico ormai è evidente anche a loro. Quindi questo è un dato che potrebbe essere utile proprio in funzione anche del taglio dei tassi. Certo, poi ricordiamo sempre che il rallentamento economico cinese significa non più tassi di crescita a due cifre, ma siamo pur sempre nell'ordine del 7-8% appunto di crescita del PIL, però in un mercato che è esigentissimo, in un mercato che soprattutto dal fronte dell'economia emergente ha funzionato sempre da grande ammortizzatore per le zone occidentali, che invece hanno cominciato a rallentare prepotentemente la loro crescita, è chiaro che ci si aspetta un po' di più da quelle aree che ci hanno davvero protetto fino a questo momento. A proposito di Banca Centrale Europea, non abbiamo ricordato che stamattina, per cercare di calmare ma non con grande successo la situazione, è intervenuta sul mercato secondario continuando appunto ad acquistare titoli di Stato italiani e spagnoli proprio per raffreddare le tensioni, lo hanno confermato diverse fonti, ma tutto ciò appunto non basta al mercato, anche perché ci si comincia a chiedere fino a quanto la BCE appunto potrà continuare in questa sua azione. Le armi non sono illimitate, anche se la potenza di fuoco appunto dell'organismo di Francoforte è elevatissima, ma ad un certo punto si dovrà anche stabilire e fissare uno stop a questa iniziativa. Corrado Cairone, le chiedo ancora un minutino di pazienza perché vorrei andare adesso a Copenaghen dal professor Amoroso, che ricordo ancora è un economista di fama internazionale, è docente di economia internazionale presso l'Università Roskilde in Danimarca, coordina programmi di ricerca e cooperazione con i paesi dell'Asia e del Mediterraneo, presiede il Centro Studi Federico Caffè, ha pubblicato tante iniziative appunto editoriali molto interessanti, ne ricordo una per il bene comune, dallo stato del benessere alla società del benessere di un paio di anni fa, e adesso invece è in libreria con Euro in bilico, lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale. Quindi già dal titolo, professor Amoroso, capiamo qual è la sua teoria sul successo o meno della costruzione di un'unione monetaria, che oggi ci racconta di questa crisi pesantissima. Mi spiega lei come la racconta ai suoi studenti questa crisi che stiamo vivendo in queste settimane? La si racconta sia agli studenti che agli altri, la si può raccontare tenendo conto che al di là del nervosismo delle borse, diciamo, poi un nervosismo che in realtà non credo sia così solo reattivo, è anche un nervosismo calcolato, ma che cioè non potrebbe essere diversa, perché noi abbiamo avuto una serie di incontri, di vertici, sia dei paesi dell'Unione Europea, sia del gruppo Euro, che in realtà mi sembra sottovalutino totalmente quella che è la situazione. Questo vale soprattutto ovviamente per la Francia e per la Germania, in quanto la crisi dell'euro non si è risolta e non è stato proposto nulla, la si ignora con i richiami retorici che è meglio l'euro che del caos. La crisi delle banche, come giustamente anche lei richiamava, niente è stato fatto per separare le mele marce da quelle buone e quindi ristabilire un sistema del credito che fosse di aiuto all'economia reale. La crisi economica riguarda tutti i paesi, soprattutto della zona euro, appunto, perché i paesi della zona non euro, i paesi europei dell'Unione Europea hanno situazioni diverse e migliori. E poi infine la speculazione che è all'origine di questo fenomeno che è iniziato appunto dalla metà del decennio, questa speculazione non solo non è stata combattuta o limitata, ma si è rafforzata, perché una speculazione finanziaria che sappiamo controlla il governo degli Stati Uniti, ma che oggi controlla anche il governo dell'economia europea attraverso la Banca Centrale Europea. Quindi abbiamo i gruppi speculatori, parlo della Goldman Sachs, che presiedono alle decisioni politiche più importanti sia degli Stati Uniti sia oggi della Banca Centrale Europea. Quindi aspettarsi una situazione diversa non mi pare, questo non è una sorpresa. Il problema è cosa bisogna fare per rimettere in moto economie ferme, che sono le economie soprattutto dei paesi euro, e come ristabilire un rapporto veramente di cooperazione economica tra questi paesi. Benissimo, allora queste ricette magari ce le spiega il professor Amoroso nella seconda parte della trasmissione, perché adesso mi devo fermare. Tra le altre indicazioni che lei dà nel suo libro, che hanno suscitato, non sono ovviamente riuscita a leggerlo tutto perché qua non abbiamo mai tempo per far niente, ma lei dice ad un certo punto esplicitamente che i paesi che hanno adottato l'euro invece che crescere come ci si sarebbe aspettati appunto da una coesione politica e monetaria di questo tipo così imponente, hanno un ritardo spaventoso nella crescita economica rispetto a quelli che invece hanno mantenuto la sovranità della moneta. Però mi piacerebbe capire perché la pensa così, visto che se per esempio prendiamo ad esempio il Regno Unito, non è che non abbia subito i contraccolpi della crisi pur essendo appunto avversi all'euro in maniera evidente. Detto questo, adesso ci dobbiamo fermare. Io non ho ricordato che gli ascoltatori possono anche oggi intervenire in diretta chiamandoci all'800240024, scrivendoci al 349 238 6666. In tutto questo, per non incupirci completamente l'umore stamattina, che è già nero con quello che sta accadendo sul mercato, vi racconteremo fra qualche minuto anche invece di una campagna che è stata partita da poche settimane, dal 20 ottobre esattamente, che si concluderà il 31 gennaio, che si chiama L'ultima lira, ed è una campagna che vuole lanciare un appello proprio alla donazione delle lire che abbiamo ancora magari in qualche vecchio cassetto a casa. Le possiamo riportare appunto presso alcuni uffici che adesso vi indicheremo, e che possono essere destinati appunto questi soldi ai progetti di solidarietà, tanto ormai la campagna di ritiro delle ultime lire in circolazione si sta quasi concludendo, a meno che non dovremmo tirarle fuori qua per altri motivi, ma speriamo davvero di scongiurare questo scenario. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Allora, è l'euro che non ci dà tanta tranquillità in questi giorni, perché abbiamo ripescato dai nostri archivi Se potessi avere 1.000 lire al mese, perché magari qualcuno di noi in qualche vecchio cassetto in soffitto, chissà dove, ha ancora conservata qualche vecchia banconota. Peraltro sembra che quelle da 1.000 lire siano ancora i tagli di banconota appunto in lire ancora tra quelle più diffuse nelle nostre case, probabilmente anche a nostra insaputa. Allora, peraltro, per darvi una cifra complessiva, secondo le cifre della Banca d'Italia in circolazione ci sarebbero ancora 2.500 miliardi delle vecchie lire, naturalmente distribuiti in tagli diversi. Allora, perché parliamo di questo argomento? Perché abbiamo ritirato fuori la lira? Perché temiamo appunto di doverle materialmente ritirare fuori, perché tra un po' l'euro sparirà dalla circolazione. Tra l'altro volevo salutare, perché mi ha scritto prontamente una mail avendo sentito che avrei lanciato questo tema nella parte precedente di Salvadanaio, il professor Francesco Daveri, che è un animatore della voce.info, oltre che docente di politica economica all'Università di Parma, che mi scrive: non fare l'allarmista, addirittura il ritorno alla lira. Non è esattamente questo questo, ciò di cui vogliamo parlare, ma ben altro. Io saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina, perché ho voluto rovinare questo ponte a un bel po' di persone. Giancarlo Durante, vicepresidente di ProSolidar e direttore centrale dell'ABI, l'associazione appunto delle banche italiane. Dottor Durante, buongiorno e benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno a voi, grazie. In questa giornata un po' così nervosa sui mercati, ci racconti di questa, non, di questa campagna che si chiama L'ultima lira, e in qualche maniera così volete sollecitare tutte quelle famiglie che magari in qualche cassetto hanno qualche vecchia moneta, qualche vecchia banconota appunto di lire, a riportarle presso le filiali della Banca d'Italia. Per quale motivo, dottor Durante? Ma come lei diceva poco fa, ci sono ancora in circolazione circa 1.300.000.000 di euro di banconote in lire. C'è tempo fino alla fine di febbraio 2012 per il cambio. Al ritmo attuale si prevede che entreranno negli sportelli della Banca d'Italia per il cambio circa 10 milioni di euro contro il 1.300.000.000, una somma molto lontana dal totale. L'idea che è venuta a ProSolidar, poi ci intratteremo magari un attimo su questo, è stata quella di lanciare una campagna per cercare di sollecitare il recupero di queste lire, come lei diceva, probabilmente dimenticate in qualche cassetto, per destinarle a iniziative umanitarie. E quindi si è messo insieme un gruppo di 5 partner che si occupano di solidarietà a tratto generale per lanciare 5 diversi progetti di solidarietà che vorremmo finanziare con questo tipo di raccolto. Allora, quindi ci racconti, poi entreremo magari nel merito anche dei singoli progetti che intendete finanziare con questa iniziativa. Tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori che poi proseguiremo anche la nostra chiacchierata con Corrado Caironi e Bruno Amoroso sui mercati, sul futuro dell'euro e su questa nuova ventata di crisi pesante che si è inasprita nelle ultime giornate. Però ho aperto una parentesi anche col dottor Durante, perché ci sembra anche carino raccontare di questa iniziativa. Come sarà possibile, per chi ritrovasse nei vecchi cassetti appunto banconote vecchie, tra l'altro leggevo che per esempio sono ancora 12 milioni i pezzi di biglietti da 100.000 lire ancora in circolazione, per un totale di oltre 1.200.000.000 di lire per l'appunto. Anche i tagli da 500.000 lire sono considerevoli, neanche mi ricordo come sono fatte queste qua, dottor Durante. Comunque, come possiamo fare se ce ne volessimo liberare per aderire a ProSolidar e alla campagna Ultima Lira? Allora, il sistema è molto semplice, basta mettere queste banconote in una busta intestata ProSolida raccolta lire e portarle in uno dei 18.000 finora sportelli che hanno aderito all'iniziativa, sono sostanzialmente tutto il sistema bancario, gran parte del sistema bancario che ha già aderito e altre aziende stanno aderendo in queste ore. Provvederà poi la singola azienda a raccogliere le buste che verranno poi convogliate in un unico punto di raccolta alla fine per essere consegnate a cura di ProSolidar alla Banca d'Italia per il cambio. Quindi nessuna incombenza particolare per chi vuole farlo, semplicemente. Esattamente come è funzionato fino adesso, no? Solo che adesso diciamo quelle che vengono riconsegnate hanno un destino differente rispetto. Sì, diciamo che adesso ciascun interessato si reca presso lo sportello di Banca d'Italia per il cambio, mentre qui ci si può indirizzare alla propria banca e consegnare una busta chiusa, come dicevo, intestata ProSolidar raccolta lì. Proverà poi la banca a farlo. Allora, ci spiega quali sono le 5 iniziative specifiche che potremmo così finanziare con questa operazione, dottore Durante? Sì, abbiamo messo insieme, a parte ProSolidar, quattro altri partner. Il primo è Emergency, che con i denari raccolti sosterrà il centro pediatrico di Bangui nella Repubblica Centroafricana, che è un centro che offre cura ai bambini fino a 14 anni e svolge attività di educazione igienico-sanitaria rivolta alle famiglie. Secondo partner, non in ordine di importanza ovviamente, è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR, che vuole portare cibo, acqua e beni di prima necessità al popolo della Somalia afflitto da una terribile carestia. Ci sono poi iniziative che riguardano Terre des Hommes e le Case del Sole in 7 diversi paesi. Sono case che offrono protezione dalla violenza, cibo, educazione e cure mediche a oltre 3.000 bambini. Poi c'è la Biblioteca Vaticana, altro partner di rilievo in questa iniziativa, che vuole destinare l'antico Salone Sistino a una nuova sala di lettura. E questa è un'iniziativa particolarmente significativa sul piano della cultura. Per quanto riguarda Prosolidal in particolare, l'idea è quella di restituire alla città di Napoli i beni che sono stati tempo fa sequestrati alla malavita organizzata e utilizzarli per fini sociali. Questo è il pool dei partner. Prosolidal ha fatto da pivot per questa iniziativa. L'idea nasce da Prosolidal, che è il fondo di settore del credito per i progetti di solidarietà, un'iniziativa ancora oggi unica al mondo, che nasce come organismo bilaterale che si basa sul contributo paritetico tra aziende e lavoratori del credito. Insomma, qui dobbiamo anche un pochino forse rimanere sorpresi del fatto, perché tante volte ci stupiamo, dottor Dorante, che sia possibile mettere insieme le due parole finanza e solidarietà, però in questa circostanza forse siamo appunto propensi molto favorevolmente a farlo. Io la ringrazio per essere stato con noi. Ci dice magari in un'ultima battuta, per chi lo volesse, dove può trovare le informazioni per capire se fosse sfuggita qualche informazione come funziona questa campagna L'Ultima Lira? Avete attivato qualche sito internet, dottor Durante? Sì, c'è un sito attivo, si chiama L'Ultima Lira, tutto attaccato senza l'apostrofo, dove chiunque può trovare qualunque tipo di informazione, comprese le aziende aderenti e le modalità per il versamento. Benissimo, grazie a Giancarlo Durante, vicepresidente di Prosolidal, direttore centrale dell'ABI. Buona giornata e buon lavoro naturalmente. Grazie, noi ritorniamo ai mercati con Corrado Caironi e Bruno Amoroso, perché oggi è una giornata da monitorare attentamente, e andiamo un po' a vedere anche che cosa sta succedendo in tempo reale. Milano meno 5,48%, meno 4 Parigi, meno 4,86% Francoforte, Londra meno 2,51%. Peraltro poco fa si è appreso che dall'Unione Europea non sarebbe arrivata ancora nessuna comunicazione formale da parte del governo greco relativamente a questa proposta di fare un referendum sul piano di aiuto alla Grecia, indiscrezione che è circolata ieri e che stamattina sta portando tutte queste vendite sia sul mercato azionario ma soprattutto su quello obbligazionario, e ne paga le conseguenze pesantemente l'Italia, perché lo spread rispetto ai titoli tedeschi è schizzato alle stelle, così come appunto i rendimenti chiesti dal mercato sul secondario. Il BTP decennale ormai stabile intorno al 6,20% come rendimento. Corrado Caironi, volevo chiederle, ieri si è appresa anche la notizia di questo crack per un altro colosso della finanza americana, MF Global, ovviamente una società della quale nessuno di noi aveva mai sentito parlare fino all'altro giorno. Scopriamo adesso che questo broker americano è esposto per 6 miliardi e 300 milioni di euro in bond di Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda, e ovviamente in un crack che magari potrà avere chissà quale natura, la notizia che tutti si preoccupano di enfatizzare che ha in portafoglio questa società molti titoli italiani. Ma non credo che la responsabilità sia di questo, del fatto che questa società sia tracollata. Beh no, diciamo che in linea di massima questo broker, che tra le altre cose è un broker molto, molto noto comunque nella City di New York, si trova oggi non tanto in una, diciamo, una situazione di bancarotta vera e propria, tant'è che infatti ha chiesto l'accesso al Chapter 11, perché la situazione è proprio di illiquidità del portafoglio. Quindi vediamo che almeno da quello che è stato presentato come richiesta al Chapter 11 sembra che i debiti siano intorno a 39,7 billion di dollari contro asset valorizzati a 41 billion, quindi di fatto la situazione dovrebbe essere quasi in equilibrio. Però sta di fatto che dentro l'enfasi di questa situazione è il fatto che ci siano dei debiti sovrani europei che sono sostanzialmente illiquidi, quindi questo ha dato subito modo di isolare questo broker e ovviamente di metterlo in condizione di chiedere il Chapter 11, insomma questa procedura pre-bancarotta, insomma. Dottor Caironi, io adesso devo andare in pausa. In 30 secondi, secondo lei, dopo il 6,20% sul rendimento del BTP decennale, dovremmo abituarci nelle prossime settimane a ritoccare di nuovo questi record? Fino a quanto? Perché noi temiamo il livello del 7%, perché è stato quel livello dopo il quale l'Irlanda e la Grecia hanno dovuto chiedere aiuto alla comunità finanziaria internazionale. Ma guardi, io l'impressione che ho è che la situazione si stava evolvendo, non dico positivamente, però in una visione un pochino più serena settimana scorsa quando ci sono stati gli accordi. Quindi il problema grosso oggi è mettere in sicurezza il debito sovrano, che in questa fase, nell'occhio del ciclone, è quello europeo, però in linea di massima ci sono anche altri debiti internazionali molto importanti. Questa situazione, finché non trova una sua logica, sicuramente trova terreno fertile per una situazione di disagio da parte di chi ha in portafoglio i titoli del debito sovrano e quindi cerca di metterli sul mercato e cerca di alleggerire la posizione. Quindi questo ci può portare effettivamente anche a situazioni di tasso estremamente difficili, perché arrivare vicino al 7% veramente vorrebbe dire comunque dare un segnale molto molto negativo al mercato. Quindi questo è il tema forte che io vedo affrontato nel G20 dei prossimi giorni. Tenga conto di una situazione comunque anche di rilievo, che sempre nel G20 doveva essere discusso il discorso del fondo salva stati. Questo era estremamente importante, perché la banca centrale, come dicevamo prima, può fare molto, ma può fare molto se anche ha dietro un EFSF, questo fondo importante di 1 billion che può aiutare, e dall'altra parte il fondo monetario. Quindi nei prossimi giorni io mi auguro che venga trovata una mediazione proprio per evitare questo, perché il 7% effettivamente segnerebbe una situazione, insomma, una campana all'ultimo giro del nostro debito. Speriamo di no. Grazie a Corrado Caironi, io la saluto, così termino poi la trasmissione con Bruno Amoroso, perché altrimenti penserà che da Copenaghen non l'abbiamo fatto collegare, così tanto per ascoltarci e basta, ma gli ultimi 10-12 minuti li dedico interamente al professor Amoroso. Adesso però andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, solo per pochissimi istanti. Ci sono un paio di domande di due ascoltatori questa mattina, ma adesso ritorno al professor Bruno Amoroso a Copenaghen, docente di economia internazionale presso l'Università di Roskilde, appunto in Danimarca, autore del libro Euro in bilico, in libreria da pochissime settimane, Lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale. Il professore Amoroso ricostruisce nel libro appunto come si sia formata l'Unione Monetaria Europea e spiega che c'erano delle grandi aspettative che oggi, dopo un decennio, non hanno dato i risultati sperati. I paesi che hanno adottato l'euro mostrano un ritardo, dice, nella crescita economica rispetto a quelli che hanno mantenuto la sovranità monetaria nazionale. Facevo prima l'esempio, professor Amoroso, del Regno Unito, che non ha esattamente questa condizione, però, perché effettivamente vive una condizione appunto di difficoltà economica molto, molto forte e conclamata, pur avendo mantenuto la sterlina. Quindi ci può spiegare un po' meglio, sì, perché certo la pensa in questo modo? Sì, certo. Alcuni brevissimi commenti prima. Intanto sulla questione Grecia, tenga conto che il problema della Grecia non è il fatto che Papandreou, cioè il primo ministro, vuole mettere al referendum questa proposta, questo pacco che l'Europa vuole imporre alla Grecia, anzi questo è un fatto di grande democrazia che dovrebbe fare la stessa Unione Europea prima di mandare questi pacchi in giro per l'Europa. Beh, la Germania lo fa, perché ogni decisione comunque prima la fa ratificare al suo Parlamento, quindi in qualche modo cosa diversa. Quindi questa è una prassi, però indubbiamente l'instabilità, come si dice, dei mercati nasce dal fatto che quella proposta europea è insostenibile. Questo chiunque ha un po' di buonsenso capisce che quel pacco non si può imporre né alla Grecia né lo si potrebbe imporre a nessun paese. Quindi da questa assurdità ideologica di queste proposte di soluzione cosiddetta della crisi che nascono i problemi. Ma veniamo un po' al tema che anche indicava lei. Cioè è chiaro che c'è una crisi di finanza generale che colpisce, per la speculazione finanziaria, colpisce tutti i paesi che naturalmente hanno rinunciato alla sovranità nazionale. Questo è il punto, perché è chiaro che non colpisce i paesi asiatici, che hanno la loro moneta e la loro politica economica, non colpisce i paesi dell'America Latina, che hanno la loro sovranità monetaria e economica, colpisce invece i paesi anche in Europa che di più hanno rinunciato alla sovranità nazionale, alla sovranità monetaria. Vede, il fatto che l'euro è la moneta dell'Unione Europea, come lei sa, è una menzogna. In Europa ci sono 11 valute. L'euro è una di queste 11, se poi includiamo la Norvegia e la Svizzera dall'altro, siamo a 13. Vabbè, ma sono paesi che ora, progressivamente entreranno. L'assurdo dell'euro, che è una delle 11 valute appunto, non è la valuta europea, è che mentre tutte le 10 valute sono valute nazionali con uno Stato dietro, l'euro non ha uno Stato dietro, quindi è una valuta che nasce da una sorta di rapporto di cooperazione monetaria. Le cooperazioni monetarie da sempre, riguardo il dollaro, l'euro o qualunque cosa, durano in genere, hanno una loro durata di 10-12 anni. Quindi nella crisi dell'euro come sistema di cooperazione tra stati diversi non è strana, fa parte della natura delle cose. Anche il dollaro ha subito ogni 10-12 anni il bisogno di modificare i propri rapporti. Ora, qual è il problema quindi dell'euro? Il problema è che appunto all'interno della zona euro abbiamo dei squilibri molto forti, cioè abbiamo i paesi diciamo del centro-nord, la Germania e i suoi alleati diciamo, che hanno una situazione economica diversa, preferenziale, perché tra l'altro controllano il sistema monetario e le politiche economiche. Abbiamo i paesi dell'Europa del Sud invece che di tutto questo pagano le conseguenze. Quindi una riflessione sulla necessità di articolare in modo diverso, non tornare alle valute nazionali della zona euro, gli altri già ce l'hanno le valute nazionali, ma nella zona euro non si tratta di tornare alle valute dei singoli paesi della zona euro, si tratta semplicemente di articolare il sistema dell'euro in modo tale che riconosca che i paesi dell'Europa del Sud, inclusa la Francia, hanno una struttura produttiva, economica e sociale diversa dai paesi dell'area tedesca. Questa è una considerazione di buonsenso che dovrebbe rapidamente riportare a ridiscutere il sistema. Certo, il problema è che se è, come dire, opportuno che questa ridiscussione venga messa in campo adesso, fase in cui si deve affrontare invece una crisi drammatica in cui chiaramente poi l'Europa sconta anche l'inesperienza dei politici europei a governare un sistema che ha appena 10 anni di vita, perché non appena si sono aggregati, uniti e l'Unione Monetaria è partita, poi ecco nel giro di pochi anni ci si trova ad affrontare una crisi pesantissima che avrà tutte le ragioni che lei indicava il professor Amoroso, però effettivamente ci è piombata anche addosso, ma è arrivata dall'altra parte del pianeta. Vede, gli stati non possono essere più lenti dei sistemi finanziari e speculativi, perché lei come oggi sa esiste l'euro che è una finzione, perché poi i titoli dei vari paesi vengono misurati in modo diverso. I titoli greco-italiani che sono in euro hanno un valore minore dei titoli tedeschi che sono anch'essi in euro. E questo ovviamente è un assurdo, questo dimostra il bisogno appunto di ridare contenuto reale a questi titoli all'interno di un sistema valutario che deve essere organizzato in modo diverso, altrimenti noi lasciamo alla deriva, alla speculazione appunto giocare su una stessa moneta, ma guarda caso i titoli dei paesi della stessa moneta in euro hanno poi valori diversi. Ma questi sono fenomeni strettamente speculativi che andrebbero combattuti con i mezzi che gli stati nazionali e l'Unione Europea ha per hanno a disposizione. Professor Amoroso, io la provoco così brutalmente perché tanto oggi abbiamo capito che non dobbiamo più aver paura di dire niente. Lei d'altronde le sue considerazioni su questo spettro del fallimento, non lo dichiariamo un fallimento perché non ci piace neanche questa considerazione, visto anche l'investimento enorme che si è fatto per trasformare appunto la nostra Europa. Tornando un pochino a riguardare l'Italia, secondo lei, visto che molti lo dicono, visto che molti prendono ad esempio quello che è successo in Spagna, che nel momento in cui Zapatero ha annunciato appunto nuove elezioni e che non si sarebbe ricandidato eccetera, secondo lei se questo succedesse in Italia in questo momento contribuirebbe un pochino a rassicurare gli animi, a rassicurare un po' l'opinione degli investitori internazionali nei nostri confronti? Serve questo passo secondo lei? Ma guardi che gli investitori internazionali sono molto più razionali di questi giochi della politica, questi sono i giochi della politica, gli speculatori internazionali guardano molto bene ai fatti reali dell'economia e su quelli si muovono. Il problema è ovviamente se il governo italiano in questa situazione prende una iniziativa forte all'interno della zona euro, che anziché contrattare piccoli spazi di manovra come cerca di fare a ogni vertice, invece propone all'interno della zona euro delle misure che siano a protezione dell'economia appunto. Quale potrebbe essere questa iniziativa forte? Beh, questa iniziativa forse appunto di conquistare uno spazio di politiche economiche dentro i famosi parametri di Maastricht e dentro il famoso patto di stabilità che riconsentano a questi governi dell'Europa del Sud di fare politiche non sull'esportazione ma invece per il rilancio delle proprie economie. Questo è quello che i paesi possono fare anche all'interno dell'Unione Europea, ovviamente contrastando un'interpretazione rigida Ma pensavo che lei avesse in mente quelle che sono le politiche economiche. Vede, tutta la linea oggi dell'Unione Europea, in realtà, quando cerca di risolvere i problemi, tenta di dividere il debito dell'Eurozona tra i vari paesi, ma facendo questo non fa altro che schiacciare la crescita economica di tutti. Professore Amoroso, sarà durissima, ma ne usciamo secondo lei? 10 secondi. Beh, no, ne usciamo se appunto c'è uno scatto politico, sociale dei paesi dell'Europa del Sud, e credo che quello che la Grecia sta facendo potrebbe servire addirittura di spinta, se non viene lasciata sola, ma Italia, Spagna e Portogallo si alleano insieme e vanno a Bruxelles a trattare su nuove politiche di rilancio dell'economia. Però il mercato evidentemente stamattina non la pensa così. Grazie a Bruno Amoroso per essere stati con noi. Noi ci risentiamo tra poco nel giornale radio e ci risentiamo anche naturalmente domani con Salvadanaio. Buona giornata a tutti.